Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Buon pomeriggio da Maria Luisa Pezzali. Oggi a Essere e Avere, dimmi cosa compri e ti dirò chi sei, parliamo di marketing e passaparola, quando la chiacchiera diventa spot. Parliamo poi di tracciabilità dei prodotti e, per il focus sui trend, della bicicletta. Prima, come sempre, ci sono le notizie e curiosità della settimana. In Francia, la crisi traina i consumi culturali. Per film, mostre, teatro e libri, il 2008 è stato l'anno di tutti i record. Cifre trionfali per i musei, dal Louvre al Centre Pompidou. Gli storici ricordano che nei periodi di crisi, la cultura è un bene rifugio, aiuta ad affrontare meglio le difficoltà. Dopo la cena, arriva anche il matrimonio sulla piattaforma sospesa in aria da una gru a 50 metri d'altezza. Sotto il Grand Canyon, la baia di Sydney, la laguna di Venezia o qualsiasi altra location a scelta. Sulla struttura di Marriage in the Sky c'è posto per 20 invitati. L'Oréal Paris arruola 4 campioni della Juventus come testimonial. Protagonisti della nuova campagna per la linea Men Expert, Buffon, Camoranesi, Le Grottaglie e Sissoko. Tessuti di fibre ottenute dai fusti delle piante di ortica. È l'ultima scommessa ecocompatibile di ThinkPink, storico marchio sportswear. Il bisogno d'acqua delle piante di ortica è 800 volte inferiore a quello delle piante di cotone. Prendete il Monopoly e unitelo ai Beatles. Otterrete un'edizione speciale dello storico gioco in scatola dedicato alla band inglese. Al posto di vie e stazioni ci sono le arene più importanti dove hanno suonato. Viali e pedine citano i loro brani più famosi. La borsa della spesa. La shopping bag di questa settimana è piena di chiacchiere, quelle vere. Non stiamo parlando dei dolcetti di carnevale, parliamo infatti del passaparola, l'ultima frontiera del marketing. Lei è l'ape regina, la star, e quelle due sono le sue piccole schiave. Regina George. Regina George non ha difetti. Ha due borse di Fendi e una Lexus argentata. Si è assicurati i capelli per $10,000. Ho sentito che fa la pubblicità alle macchine in Giappone. Il suo film preferito è Varsity Blues. Una volta ha incontrato John Stamos in aereo e lui le ha detto che è stupenda. Una volta mi ha dato un pugno in faccia. È stato meraviglioso. Prendete un'ape regina, la ragazzina più popolare della scuola, proprio come quella appena descritta nel teen movie Mean Girls. Regalatele il prodotto che volete lanciare, più una piccola somma in denaro, con la richiesta di farsi vedere in giro con l'oggetto del desiderio e di parlarne agli amici. Il successo è assicurato. Fantascienza? In America è prassi diffusa. Lo fanno grandi multinazionali come la Hasbro, la Lego, la Procter & Gamble. Una marca di salse per carne ha raddoppiato il suo fatturato a colpi di barbecue tra amici. Si chiama Buzz Marketing, da Buzz, chiacchiericcio, oppure Warm Marketing, dall'espressione inglese word of mouth, che indica il passaparola. La declinazione più scorretta è l'evangelist marketing, la pubblicità camuffata da un opinion leader in incognito, il vicino di casa, il collega, l'amico, uno sconosciuto sull'autobus. Negli Stati Uniti ci sono agenti pagati dalle agenzie per chiacchierare di un prodotto o di una marca sul metro e nei bar. La variante tecnologica è il viral marketing, contagioso come un virus, appunto. Il passaparola che viaggia via mail, blog, forum, chat, YouTube, Facebook. Molto più rapido ed economico della pubblicità tradizionale. Il passaparola sarà davvero la pubblicità del futuro? Lo abbiamo chiesto a Giuliano Noci, responsabile area marketing del MIP Politecnico di Milano. La pubblicità tradizionale sta perdendo appeal. I cosiddetti PIAS, comunque la comunicazione tra amici o tra soggetti che si stimano reciprocamente, diventa sempre più importante. Una recente ricerca pubblicata negli Stati Uniti evidenzia come i blog stiano diventando un importantissimo strumento di scelta di determinati prodotti. Più del 20% degli individui decide sulla base dei commenti effettuati sui blog. Quindi in questo senso decisamente il word of mouth marketing, la marketing virale, sarà la frontiera del futuro. Il passaparola nasconde però un forte rischio, che del prodotto si possa anche parlare male. Il parlare male è uno degli elementi che preoccupa le aziende che decidono di affrontare questo nuovo tipo di esperienza. Ci sono casi interessanti nell'agroalimentare. Importanti imprese multinazionali hanno avviato progetti, ma hanno trovato una forte resistenza interna, perché così come si parla bene si può parlare male. È un rischio che le aziende devono correre, ci dice Gianluca Diegoli, esperto di marketing e comunicazione aziendale, blogger, autore di minimarketing.it. Se le aziende vogliono sfruttare questo nuovo canale di comunicazione, devono accettare il fatto che una volta iniziata questa conversazione tra i consumatori, questa vive di vita propria e quindi non può più essere controllata. Le aziende, se vogliono sfruttarlo, devono abituarsi all'idea che c'è una perdita di controllo del messaggio. Anche in rete ci sono pratiche al confine della scorrettezza, come le community fasulle create ad hoc per promuovere un prodotto. Hanno spesso vita breve, però, ci dice ancora Diegoli. Nel caso per esempio dei blog fasulli, per mia esperienza questi sono stati tutti individuati entro breve tempo. Quindi le iniziative smaccatamente false sono abbastanza facili da individuare, di solito hanno un po' le gambe corte, insomma, come le bugie. Ci sono delle pratiche che invece stanno un po' in una zona grigia, insomma, quelle di, per esempio, pagare persone influenti del mondo online per parlare di questi dei propri prodotti. Cambiamo argomento con Luigi Rubinelli, direttore di Markup, e parliamo delle nuove frontiere nella tracciabilità dei prodotti. La tracciabilità del prodotto sta cambiando pelle. I radioascoltatori ricorderanno che il termine rintracciabilità è balzato agli onori delle prime pagine dei giornali con lo scandalo di Mucca Pazza alla fine degli anni 2000. Il legislatore europeo obbligò i produttori di carne e i supermercati a mettere ben in vista nei punti di vendita una scheda attraverso la quale ogni consumatore poteva facilmente risalire dal taglio di carne richiesto al bovino e al luogo dove questo era stato allevato e successivamente macellato e diviso. Tracciabilità è diventato così sinonimo di informazione obbligata. Qualcosa però sta cambiando e da obbligo di legge questo termine si sta trasformando in un elemento più complesso, in una vera e propria miniera di informazioni che sfiorano l'entertainment e la valorizzazione della marca. Ecco alcuni esempi di questa piccola rivoluzione. Patagonia è la marca conosciuta da chi va in montagna, i suoi capi tecnici sono prodotti con materiali particolari, costosi sì, ma con prestazioni eccezionali. Il posizionamento di Patagonia è basato sul rispetto per l'ambiente. Ogni suo capo è dotato di un codice, il cliente lo può inserire in un'apposita finestra del sito internet e gli compariranno diverse soluzioni di informazioni dettagliate, a cominciare da quanta CO2 è stata emessa per produrre quel singolo capo, oppure può vedere in quali condizioni di lavoro gli operai dello stabilimento in Thailandia o in Marocco operano. Secondo esempio, Icebreaker, il principale produttore di lana merinos della Nuova Zelanda, propone lo stesso sistema di Patagonia sul suo sito. Il cliente inserisce il numero della referenza acquistata e il sito internet gli mostra una carta geografica dettagliata della zona di produzione, dalla pecora allo stabilimento di confezionamento. Con un clic ulteriore può accedere all'allevamento di pecore che ha fornito la lana per il suo maglione e con un altro clic ancora può ascoltare la testimonianza dell'allevatore sui problemi che riguardano le pecore. Walmart, il leader mondiale del commercio, ha scelto la stessa tecnologia per la sua nuova linea di gioielli ecosostenibili denominata Love Earth Jewelry. Il cliente inserisce il codice sul sito e verifica da quale miniera arriva il prodotto. Si assicura delle condizioni di lavoro dei minatori e del rispetto dell'ambiente per le attività di estrazione e via dicendo. In questo modo la tracciabilità, come abbiamo raccontato, diventa una miniera di storie e racconti del prodotto, ma anche della marca e del suo posizionamento che li rappresenta. Mai più senza. Niente più oro, diamanti e pietre preziose, i gioielli da esibire quest'anno sono di lana e di altri materiali grezzi, come ci racconta Giulia Crivelli nel pezzo cult di questa settimana. Le risorse creative di chi disegna gioielli, come forse quelle di chi disegna abiti o accessori o quelle di chi scrive canzoni o melodie, sembrano infinite. Usando sempre gli stessi materiali e creando lo stesso tipo di oggetti, ogni stagione appaiono cose mai viste prima. Ma ora, per quanto riguarda bigiotteria e gioielleria, c'è chi fa un passo in più, usando cotoni, lane e velluti al posto di metalli e pietre preziose. Il caso della designer francese Sophie Digard, che nell'atelier parigino crea collane con perline di diverse forme e colori, tutte intessute a mano e infilate con un filo di lana, con costi che partono dai 100 euro e possono arrivare a 300. Pezzi unici e delicati a cui si possono abbinare sciarpe e borse. L'altra frontiera è il cuoio. Henri Beglen, italianissimo marchio disegnato da Tullio Marani con laboratorio a Vigevano, propone da qualche stagione collane fatte di anelli di cuoio in cui sono incastonati piccoli monili in metallo, oppure bracciali rigidi con pietre semipreziose e perline di diverse fogge, dal gusto etnico e allo stesso tempo europeo. I gioielli in cuoio e acciaio sono le novità 2009 anche per Orciani, azienda marchigiana famosa per le cinture che negli anni, grazie alla creatività del fondatore Claudio Orciani, si è allargata a borse, accessori e appunto gioielli. Essere e avere. Bentornati in studio con Essere e Avere, come di consueto la seconda parte è dedicata all'analisi delle nuove tendenze. Ci ha raggiunto Patrizia Martello, direttore di ricerca dell'Istituto di Consulenza GPF, docente di Sociologia dei Consumi e della Moda all'Università di Bologna. Bentornata Patrizia. Grazie, buongiorno. Oggi parliamo di un oggetto che rappresenta una sorta di catalizzatore di nuove tendenze, un oggetto simbolo in qualche modo di nuovi stili di vita, un trend sul quale si stanno concentrando molti progetti. Moda, design, mobilità urbana. Lo avrete capito con quest'ultima espressione, parliamo della bicicletta, protagonista di un rinnovato e rimotivato successo. Parliamo dell'oggetto in sé, ormai sulle biciclette si sbizzarrisce, il design più all'avanguardia, ma anche e soprattutto di quello che gira intorno a questo mezzo di trasporto democratico, universale, trasversale per età, genere e classe sociale. Patrizia. Quello della bici è senz'altro un mondo molto ispirativo per tantissimi settori, a partire da quello automobilistico. Pensiamo a BMW per le Olimpiadi di Pechino, che ha realizzato la Clubman Richaud, questa versione ibrida di una Mini con una bicicletta, una sorta di Richaud appunto, con la bici davanti e la parte posteriore fatta dall'auto, la parte dietro della Mini. Una mossa promozionale molto interessante, anche in linea con le riflessioni sul crescente inquinamento atmosferico della capitale cinese, eccetera. Sono molto interessanti i servizi nati intorno alla bici, al mondo della bici, che influenzano e generano addirittura nuove tipologie di comportamenti. In Danimarca è un caso noto: IKEA ha introdotto un servizio aggiuntivo per chi si sposta esclusivamente con mezzi pubblici o bici e quindi noleggia gratuitamente una bicicletta con l'apposito carrello per trasportare la merce acquistata. La bici è considerata, come già dicevi, un oggetto di design, in questo caso da tenere anche in bella vista in casa, e ha ispirato nuovi complementi d'arredo come il portabici da parete profile, utile tra l'altro anche per chi non ha un garage a disposizione. È un bellissimo pannello in acciaio, profondo solo 5 cm, con due tagli centrali retroilluminati in cui incastrare le ruote della bicicletta. Anche sul fronte accessori, interessantissime proposte per rendere, per esempio, i caschi più indossabili e compatibili con le varie mise delle persone nell'uso che si fa in città, quindi un po' più fashion e meno tecnici. Il brand danese Yakai ha lanciato una linea di copricaschi a forma di cappello di berretti in moltissimi modelli, tessuti e colori, per sviluppare l'idea appunto bici, stile e soprattutto sicurezza. L'avevamo già accennato, la bici è anche al centro di monomanie come quella dello scatto fisso, questa nuova passione che impazza tra i giovani di molte metropoli europee, nata per le corse nel velodromo, è appunto una moda urbana. A New York si preferisce il design made in Italy di marchi come Bianchi e De Bernardi, i londinesi hanno inventato addirittura il polo da fare con lo scatto fisso e una rivista specializzata, la Fixed Magazine. Bike sharing, ma non solo, in tante città il modello di mobilità urbana si sta spostando a grandi passi verso la mobilità ciclabile. Sentiamo. Basta tram e autobus e meno auto. Le città nuove vanno a pedali. In testa ci sono quelle scandinave, olandesi e tedesche, seguite dalle francesi e spagnole, che fanno passi da giganti. Le italiane iniziano ora. La bicicletta conquista sempre più metropoli con l'appoggio convinto delle loro amministrazioni, che devono investire in piste ciclabili, bike sharing e intermodalità, la possibilità cioè di far viaggiare la bicicletta sui mezzi pubblici. A Parigi la Vélorussion è iniziata nell'estate 2007. 21.000 biciclette a disposizione dei cittadini con la formula del noleggio prepagato. Esempio seguito nel dicembre 2008 anche da Milano, che prevede a regime 5.000 biciclette. Il modello? L'antica città universitaria tedesca di Friburgo, capitale ecologica della Germania, ai piedi della Foresta Nera, dove il numero delle biciclette è il doppio di quello delle automobili. Patrizia, per le città è una vera e propria rivoluzione. Se attuata, con le biciclette cambiano le regole, i flussi di traffico, ma anche le strutture. Ad Auckland, ad esempio, in Nuova Zelanda, sono nate delle vere e proprie stazioni di servizio per ciclisti metropolitani con parcheggi, docce, spogliatoi, caffetteria, servizio riparazione. Sì, nella scheda si citava la Francia, tu hai citato Auckland, in realtà l'Italia è un po', diciamo, il fanalino di coda in questo senso, però comincia ad avere qualche caso di eccellenza. Per esempio, alla stazione di Brescia è nato un bici grill, appunto, simile a questa esperienza di Auckland. Per tornare in Francia, sottolineo il nome del servizio di bike sharing parigino, che mi sembra molto significativo, Vélib, perché è la crasi di vélo, bici e liberté. Quindi l'idea è che questa macchina minima, come la chiama Fulvio Carmagnola, sia oggi veramente il mezzo che permette maggiore libertà di movimento in città, una libertà tutta da esplorare, da tradurre in forme, modalità, eccetera, a cui aggiungere la libertà anche dal senso di colpa nei confronti dell'ambiente. Azioni di grande portata, non solo simbolica, in tema appunto di nuove forme di mobilità urbana che vedono al centro la bicicletta, sono molte, ma una in particolare si realizzerà in America. Lì per la prima volta verranno riconosciuti incentivi pubblici alla bicicletta a partire dall'estate 2009. Chi lascia l'auto in garage e andrà a lavoro in bicicletta alla fine del mese avrà $20 in più in busta paga. Un incentivo esentasse sia per il lavoratore che per le aziende e costerà al governo $10 milioni in 10 anni. Anche il mondo dell'arte genera molte idee. Per esempio la coreana Yu Yu Peak, che disegna oggetti interattivi per gli spazi pubblici, ha creato una sorta di aggregato di sacchi neri della spazzatura, gonfiabile sul posto con una semplice pompetta, magari quella della bici, e si mette sopra la bici dopo averla parcheggiata, da usare come cover dissuasiva. E in molte città, New York, Londra, Berlino, solo per citarne alcune, anche i taxi si affidano alle due ruote, si chiamano pedicab, velotaxi, ciclotaxi, una sorta di rickshaw a pedali, alternativa ecologica ed economica ai taxi spesso imbottigliati nel traffico. Stesso discorso per i pony express in bicicletta, che da qualche mese sono sbarcati anche in Italia. Si chiamano Urban Bike Messengers, a lanciarli a Milano, prima città italiana, insieme a quattro amici, il nostro ospite di oggi, Stefano Marengo, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a lei e buongiorno agli ascoltatori. Quando e come nascono gli Urban Bike Messengers? Ma noi ci siamo incontrati circa un annetto fa, siamo un gruppo di amici che ruotano intorno alla scena del ciclismo di strada, non da strada, quello fatto di iniziative per promuovere l'uso della bici in città, come ad esempio le ciclofficine pubbliche o l'ormai noto Critical Mass. Abbiamo messo in piedi questa idea e da settembre siamo ufficialmente attivi sulle strade di Milano. Quanti sono i pedalatori vostri in giro per Milano? Ma siamo noi i 5 soci e in più abbiamo altri corrieri a chiamata, diciamo una decina, che operano in funzione della quantità di richieste e della disponibilità nostra. Come sta andando? Ma la nostra iniziativa sta suscitando un grande interesse. Stiamo vivendo un'evidente crescita della domanda. Siamo passati da 5 consegne nei primi tempi fino a un picco di 50 l'altro ieri, il tutto nell'arco di 5 mesi. Quindi diciamo che sta andando bene, siamo ottimisti. Vogliamo un po' dire quali sono i vantaggi rispetto ai pony tradizionali? I vantaggi sono sicuramente il valore sociale e ambientale. Le prestazioni e i costi sono completamente comparabili a quelli di un servizio tradizionale. A volte riusciamo a essere invece decisamente superiori in termini di velocità, grazie alla possibilità di attraversare le zone pedonali come centro storico o i grandi parchi. Ecco, io oserei dire una bella scommessa la vostra, Stefano, in una città poco bike friendly come Milano. Il traffico, il pavé, le rotaie dei tram, è una vita dura la vostra? È abbastanza dura, sì. Diciamo che i problemi maggiori sono la mancanza di infrastrutture e sicuramente la scarsa educazione civile degli automobilisti, che spesso considerano i ciclisti come un disturbo e non un vantaggio in termini sociali, perché inquinano meno e fanno meno traffico. Che obiettivi avete? Speriamo di poter dimostrare che si può fare del business in maniera ecologica. Ci auguriamo di diffondere maggiormente la cultura della bicicletta, specialmente in città. In futuro speriamo di poter allargare l'impegno sociale della nostra iniziativa, portando a pedalare con noi persone appartenenti a fasce disagiate e dando loro un'opportunità di lavoro. Obiettivi anche sogni, dunque, ho visto, insomma, volate, anzi, pedalate alto. Ci auguriamo, sì. Grazie a Stefano Marengo per essere stato con noi. Grazie a voi. Cosa c'è di nuovo ad Amsterdam? Non potevano che arrivare da lì le ultime tendenze in fatto di bicicletta, ce le racconta Giulia Marzagalli, la nostra new entry fra le esperte di MEMI, laboratorio di trend watching internazionale. Giulia. Sì, buongiorno. Ad Amsterdam le chiamano barfiets, biciclette bar, ma anche party fiets o gathering fiets, ovvero bicicletta per riunioni. Sono dei veicoli a pedali delle dimensioni di un piccolo furgone, in grado di trasportare fino ad un massimo di 22 persone più un barista pilota. Il funzionamento di questi biciclette, di questi luoghi di incontri itineranti è molto semplice. Infatti il veicolo viene trasportato da un autocarro fino ad un luogo di incontro convenuto. Così un gruppo di amici o colleghi sale sulla party fiets e comincia a pedalare seduto attorno ad un bancone. Il pilota ovviamente non beve, ma durante le frequenti soste spine distribuisce le birre muovendosi all'interno del bancone. Il successo di questo originale ibrido tra mezzo di trasporto e luogo di incontro è legato alla forte componente ludica, ovvero un gruppo di amici che bevono insieme e che possono spostarsi dove vogliono, a cui si aggiunge però un ulteriore elemento di coesione costituito dalla fatica del pedalare insieme. Grazie Giulia. Patrizia, a te la conclusione come sempre sul futuro della bicicletta. Direi che la bicicletta più di altri mezzi rappresenta una concreta possibilità di riequilibrio, di ridefinizione, di ripensamento della mobilità urbana, perché come dicevamo è un mondo ad altissima intensità di creatività e quindi di ispirazione per il futuro. Resta solo il tempo per ricordarvi il nostro indirizzo di posta elettronica essereavere@radio24.it. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.